Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano. Buongiorno a tutti, per questo venerdì 21 febbraio l'Europa si sveglia con questo attentato nazista in Germania. Naturalmente si ragiona sulla follia stragista, ma anche sull'estrema destra organizzata, e noi comunque cominciamo con Radio Bullet. Buon ascolto. Buongiorno e benvenuti nelle notizie che ci raccontano il mondo che ci circonda. Sono Barbara Schiavulli e questi i titoli di oggi. Sud-Sudan domani, accordo su governo di unità. Iran coma, rischio quarantena per il coronavirus. Intanto oggi si vota alle parlamentari. Palestina, bimbo di 8 anni colpito da un poliziotto israeliano, perde l'occhio. Egitto, tribunale rifiuta il rilascio di Ali Abdel Fattah, dissidente di spicco. E ancora Pakistan, un misterioso avvelenamento uccide 14 persone. Mentre in India un leader religioso dice che le donne con le mestruazioni che cucinano rinasceranno cani. Portogallo, il Parlamento vota a favore dell'eutanasia. Afghanistan, non c'è pace per l'accordo di pace. Infine, movente razzista per l'attentato in Germania. Questo e molto altro nel web notiziario di Radio Bullets. Ma cominciamo con lo Yemen. I bombardamenti della coalizione saudita la scorsa settimana hanno ucciso 31 persone, tra cui 19 minori, 8 maschi e 11 femmine, ha dichiarato l'UNICEF. Attacco avvenuto ad Aulf, nel nord, il 15 febbraio scorso, feriti altri 18 minori. Iran, l'università e scuole sono state chiuse ieri a Qom, nel nord-ovest del paese, dove due persone sono morte per il coronavirus. Secondo i media locali sarebbero stati dispiegati militari che hanno isolato la zona intorno all'ospedale. Ci sarebbero almeno altri 3 casi di contagio, 2 a Qom e 1 ad Arak. L'amministrazione Trump ha sanzionato ieri funzionari elettorali iraniani, 2 membri del Consiglio dei Guardiani e 3 membri del Comitato Elettorale, che hanno squalificato migliaia di candidati moderati dalla corsa al voto parlamentare prevista per oggi. Mentre il segretario di Stato americano ha fatto un giro in una base aerea saudita dove ci sono 2.500 soldati americani di stanza per tenere il fiato sul collo di Teheran. Riguardo alle elezioni, ci si aspetta che i sostenitori della linea dura ottengano più seggi e adottino un atteggiamento più conflittuale verso gli Stati Uniti e i loro alleati sul fronte interno. Invece potrebbero con più forza reprimere il dissenso. Le principali incertezze sono l'affluenza degli elettori e se i tentativi della guida suprema, l'Ayatollah Khamenei, di ottenere un maggior controllo del Parlamento avrà successo. Molti tra i riformisti e pragmatici che hanno parlato con i media hanno detto che potrebbero boicottare completamente le elezioni per esprimere la loro rabbia per le squalifiche di alcuni dei loro candidati preferiti. Oltre 6.000 su 14.000 candidati sono stati eliminati. La nota attivista anti-hijab Sharapak Sharijazadeh, dissidente dal 2018 quando è stata arrestata per aver rimosso il velo in pubblico come protesta per i diritti delle donne, ha chiesto che le elezioni oggi vengano boicottate. Scegliere tra politici riformisti e conservatori in Iran è come scegliere le due facce di una stessa medaglia, ha detto la donna. Siria, il conflitto armato tra la Turchia e Damasco e i loro alleati si è intensificato drammaticamente ieri con attacchi aerei e di artiglieria, morti e feriti su entrambe le parti nella provincia nord-occidentale di Idlib. Il ministro della difesa turco ha affermato di aver neutralizzato 50 truppe fedeli al regime di Bashar al-Assad dopo che la sua forza aerea ha colpito le truppe turche uccidendone almeno 2. Una dichiarazione del ministero della difesa russa afferma che solo 4 militari del regime di Assad sono stati feriti in attacchi di artiglieria turca e ha affermato che i suoi aerei da guerra hanno colpito i gruppi ribelli alleati con Ankara, alla periferia di Idlib, capitale della provincia contesa. Gli scambi di fuoco di giovedì potrebbero presagire una guerra ancora più pesante, a seguito di una scadenza fissata dal presidente Erdogan affinché le truppe del regime di Assad si ritirino da posizioni vicino a una dozzina di posti di osservazione stabiliti nella provincia di Idlib come parte di un accordo di de-escalation, accordo che si è finalizzato con Mosca e Teheran. I leader europei riuniti a Bruxelles hanno definito inaccettabile l'offensiva di Idlib per le sofferenze umane che sta provocando, hanno esortato tutte le parti in causa a rispettare i propri obblighi ai sensi del diritto internazionale per consentire l'accesso umanitario a tutte le persone che hanno bisogno. Giordania, tragico incidente a Petra, una delle meraviglie del mondo. Sono caduti accidentalmente dei massi ed è morto un turista italiano trentenne. Il premier israeliano Netanyahu ha annunciato un progetto per costruire 3.000 abitazioni negli insediamenti a est di Gerusalemme. L'annuncio arriva 8 anni dopo che un piano di costruzione di Givat Hamatos è stato inizialmente approvato, ma interrotto a causa delle pressioni internazionali. 1.000 case invece saranno costruite anche per i palestinesi a Beit Safaf a est di Gerusalemme. Palestina, un bambino di 8 anni, Malek Issa, del quartiere di Sawiya a Gerusalemme Est, è stato colpito da un poliziotto israeliano che ha sparato un proiettile di gomma mentre sabato camminava verso casa dopo aver comprato un panino, ha perso l'occhio. Mentre la polizia israeliana ha detto che era impegnata in un'operazione di controllo di una sommossa, immagini video pubblicate dal quotidiano Haaretz mostrano i momenti prima dello sparo, dove si vede una strada nel pieno di una normale attività. In mezzo a numerosi passanti e veicoli si vede un bambino con la felpa blu Issa che attraversa la strada e scompare dietro l'angolo fuori dalla vista della telecamera. Un attimo dopo tutti i pedoni si abbassano in risposta agli spari e cominciano a correre. Un gruppo di giovani si vede correre fuori dall'angolo dove Issa ha girato, trasportando il suo corpo per caricarlo in macchina e portarlo in ospedale. Martedì le condizioni di Malek si erano stabilizzate, ma non c'è stato modo di salvare l'occhio sinistro. In un video pubblicato dalla ONG palestinese Wadi Hilwe Information Center, il padre di Issa afferma che suo figlio è scampato alla morte e che si presume non ci siano danni al cervello, cosa che la famiglia temeva. In un articolo Haaretz ha citato testimoni oculari che hanno affermato che i poliziotti israeliani stavano semplicemente lì nel quartiere e che non si stavano verificando lanci di pietre o rivolte. I testimoni hanno detto che l'ufficiale ha intenzionalmente mirato al bambino. Un testimone, un autista di autobus locale, ha detto che quando ha affrontato l'ufficiale per quello che aveva fatto, mi ha detto di andare avanti, mentre i suoi colleghi hanno minacciato di picchiare l'autista dell'autobus. Secondo Haaretz, l'unità del Ministero della Giustizia, incaricata di indagare sugli agenti di polizia, ha ricevuto dichiarazioni da testimoni oculari, ma non ha intrapreso un'indagine ufficiale, piuttosto sta sondando l'incidente. Mercoledì il poliziotto in questione non era ancora stato convocato dal Ministero per rilasciare una dichiarazione ufficiale sulla questione. Non è chiaro se l'ufficiale sia ancora in servizio attivo dopo la sparatoria. Storie come quella di Issa non sono rare. Un bambino di 10 anni ha subito gravi danni al cervello dopo essere stato colpito alla testa con munizioni vere a Kafkadun lo scorso autunno. Un ragazzo di 14 anni ha perso la gamba dopo essere stato colpito mentre giocava a calcio con i suoi amici la scorsa primavera. Un ragazzo di 15 anni ha perso una parte del cranio dopo essere stato colpito alla testa nel 2018. In ciascuno dei casi sopra elencati, i ragazzi palestinesi feriti sarebbero stati coinvolti in attività quotidiane come Issa e sono stati presi di mira dalle forze israeliane. Inoltre, in ogni caso, non è stato riscontrato alcun illecito da parte dei soldati o degli ufficiali responsabili. Egitto, una corte egiziana ha annullato giovedì la decisione di liberare un attivista di spicco che è stato detenuto per quasi 5 mesi senza processo, Ala Abdel Fattah, un ingegnere informatico di 38 anni che si è sviluppato una reputazione sui social media durante le rivolte del 2011 che hanno investito il Medio Oriente e l'Egitto, con il rovesciamento del presidente di vecchia data Hosni Mubarak, che è stato arrestato a settembre nel mezzo di una rappresaglia senza precedenti che ha visto seguire piccole proteste proteste che chiedevano le dimissioni del presidente Abdel Fattah el-Sisi. Mercoledì scorso un tribunale ha ordinato la liberazione di Abdel Fattah, ma poco dopo i procuratori della sicurezza dello Stato hanno presentato ricorso contro la decisione. L'arresto di Abdel Fattah a settembre è arrivato 6 mesi dopo il suo rilascio dal carcere, dove aveva scontato una condanna a 5 anni per aver partecipato a una protesta pacifica contro i processi militari di civili nel 2013. Per molti la sua prigione, dopo che al-Sisi è salito al governo, è un altro segno del ritorno dell'Egitto a un governo autocratico. Algeria, ad oggi è trascorso un anno dall'inizio delle proteste, il movimento festeggia. Stai ascoltando Radio Bullets. Sud Sudan, il traguardo, la fine della guerra civile in corso da 6 anni potrebbe essere vicino. Il presidente Salva Kiir e il leader dei ribelli Riek Machar hanno annunciato un'intesa per formare il governo di unità nazionale. Ci siamo accordati per formare il governo il 22 febbraio, stiamo ancora affrontando altre questioni, ma spero risolveremo tutto, ha detto il leader dei ribelli dopo un incontro con il presidente. La speranza ora è di aprire la strada alla formazione di un governo di unità nazionale entro domani, ma il governo degli stati è ancora da determinare. La Costituzione del Sud Sudanese parla di 10 stati, ma nel 2015 il presidente Salva Kiir ha sancito una nuova divisione del territorio, istituendo ben 28 stati per poi farli diventare 32 nel 2017. Tuttavia queste decisioni non sono passate attraverso una riforma della Costituzione. Per questo motivo nuovi conflitti stanno attualmente emergendo tra coloro che desiderano tornare alla conformazione originale e quei neostati che non intendono rinunciare alla propria autonomia. C'è chi ritiene che questa questione ancora irrisolta non sarà motivo di disfacimento del lungo processo di pace, chi invece non nutre più speranze. Dall'inizio del conflitto nel 2013 molte persone sono state sradicate dalle loro case, sfollate all'interno del paese o in insediamenti di rifugiati al di fuori. Tra il 2013 e il 2017 più di 1.000 bambini sono stati uccisi o feriti, mentre più di 75.000 minori rifugiati in Uganda, Kenya, Etiopia, Sudan e Repubblica Democratica del Congo hanno attraversato i confini del Sud Sudan non accompagnati. Guglielmo Micucci, direttore di Amref Health Italia Africa, e Sara Del Debbio, operatrice Amref, hanno fatto ritorno dall'Italia da pochi giorni. Nei giorni della mia permanenza in Sud Sudan, racconta Micucci, ho visitato laboratori sanitari, ospedali pieni di pazienti ma scarni di personale sanitario, desolante se non fosse che giorno dopo giorno abbiamo incontrato operatori sanitari sudsudanesi che abbiamo formato dal 1998 e che oggi occupano anche ruoli chiavi nel Ministero della Salute o di uffici di prevenzione delle malattie cosiddette neglette. In quegli incontri abbiamo riscontrato un barlume di speranza che vogliamo continuare ad alimentare, una speranza solida fatta di competenza e di lavoro, una speranza che siamo certi contribuirà alla riconciliazione di un popolo martoriato ormai da troppo tempo. Sara Del Debbio invece è in collegamento con noi. Sono tornata da qualche giorno dal Sud Sudan, dove ero in visita ai progetti di Amref Health Africa. Io voglio pensare che stavolta possa vincere il volere del popolo, che non ha più le forze di stare in una guerra che non lo sta portando da nessuna parte, se non a sofferenza e distruzione. Questa tra l'altro non è più la guerra per l'indipendenza, quella è sudanesi l'hanno già fatta e l'hanno anche già faticosamente e orgogliosamente vinta. Ora il popolo dice che ha voglia di vivere, non più di versare sangue. Più guerra, più povertà, e più povertà porta più guerra. È un circolo vizioso da cui il Sud Sudan non riesce a scappare. È diventato veramente impressionante il ruolo vitale che svolgono i tanti attori come Amref, che cooperando tra loro hanno tessuto negli anni una rete di servizi per garantire la sopravvivenza di questo popolo. E ora continuiamo la nostra raffica. Germania, l'attentato di 2 giorni fa contro 2 locali di Arghilè ha tra le 9 vittime almeno 5 turchi. Un attacco che la cancelliera Merkel ha definito un crimine agghiacciante. La Turchia chiede che si faccia luce, procura, indaga su terrorismo, morto il killer e sua madre. L'attentatore Tobias R. ha pubblicato un video qualche giorno prima dove parlava di un attacco motivato da un atteggiamento ostile verso gli stranieri. Ha detto Peter Beuth, ministro della degli interni dello Stato dell'Assia. L'uomo era in possesso legalmente di armi ed era un tiratore sportivo. Sua madre, 72 anni, è stata trovata morta con ferite d'arma da fuoco. In un documento sconclusionato di 24 pagine, Tobias R. ha scritto che le persone provenienti da oltre una ventina di paesi dovrebbero essere eliminate. L'esperto di antiterrorismo del King's College di Londra, Peter Newman, ha twittato affermando che il testo conteneva varie, ma per lo più estreme, visioni di destra, con un'ideologia fai da te messa insieme da varie parti trovate su internet. Il modello è chiaro e per nulla nuovo, ha aggiunto. Spagna, una fabbrica di sigarette illegale è stata scoperta e 12 cittadini inglesi sospettati di gestire la fabbrica sono stati arrestati. All'interno sono stati salvati 6 operai stranieri che stavano soffocando. Un bunker sotto le scuderie nella provincia meridionale di Malaga poteva produrre fino a 3.500 sigarette contraffatte. Allora è la prima fabbrica sotterranea di sigarette contraffatte trovata nell'Unione Europea, ha detto l'Europol e la polizia spagnola. 6 operai ucraini e lituani sono stati trovati che lottavano per respirare a causa di un generatore progettato per pompare aria nel bunker a corto di gas, ha detto la polizia. Portogallo, il Parlamento ha votato a favore dell'autorizzazione dell'eutanasia e al suicidio assistito dal medico per i malati terminali. Il voto decisivo lascia il Portogallo pronto a diventare uno dei pochi paesi al mondo che consente tali procedure. Tuttavia il presidente del paese potrebbe ancora tentare di bloccarlo. Prima che i politici votassero, centinaia di persone fuori dal Parlamento hanno protestato contro le misure. Uno striscione diceva: l'eutanasia non finisce la sofferenza, finisce la vita. Alcuni manifestanti hanno alzato crocifissi ed effigi religiose. Regno Unito, un muezzin, l'uomo che chiama la preghiera musulmana dai minareti delle moschee, è stato accoltellato a Londra alla moschea centrale. Non rischia la vita, ma è stato gravemente ferito. È arrestato l'aggressore. Il muezzin, un settantenne, è stato aggredito e pugnalato una spalla al collo. E l'aggressore è stato bloccato dai fedeli che lo hanno tenuto fino a che è arrivata la polizia, che ha dichiarato di non aver trattato il caso come terrorismo. L'arrestato, un uomo di 29 anni, ha partecipato alla preghiera e poi si è lanciato verso il muezzin. Il Consiglio musulmano inglese ha affermato che indipendentemente dal motivo dell'aggressore bisogna rimanere vigili e calmi. Rivaluteremo i consigli sulla sicurezza delle moschee in tutto il paese, ha affermato il Consiglio in una nota. E non c'è pace neanche per l'accordo di pace. Siamo in ora in Afghanistan, americani e talebani avrebbero raggiunto un accordo in Qatar, dove tra le varie condizioni ci sarebbe anche il rilascio di 5.000 detenuti talebani dalle prigioni afghane in cambio di 1.000 prigionieri dei talebani. Tutto questo prima che comincino i colloqui intra-afghani, ovvero tra talebani e governo afghano. Ma il portavoce del palazzo presidenziale ha replicato che il rilascio dei detenuti afghani sarà uno dei punti più importanti delle trattative e non verranno rilasciati prima che i colloqui tra afghani comincino. Pakistan, le autorità stanno cercando di determinare la causa della morte di 14 persone nella città portuale meridionale di Karachi, con funzionari che danno spiegazioni contrastanti. Centinaia di persone si sono ammalate in un apparente avvelenamento che ha provocato nelle persone dolori al petto, difficoltà respiratorie e bruciore agli occhi. Almeno 500 persone hanno riferito di sentirsi male, molte delle quali sono state ricoverate in ospedali in condizioni critiche. Scuole e fabbriche sono state chiuse a Kemal e il Pakistan State Oil ha temporaneamente sospeso le operazioni di un terminal petrolifero del porto. India. Le donne che cucinano cibo durante il loro periodo rinasceranno cani, ha detto un leader religioso indiano, il cui sermone è diventato virale. Il guru che ha rilasciato la dichiarazione, Krishnavrup Dasji, è membro della principale setta Swaminaraya nello stato di residenza del primo ministro Narendra Modi nel Gujarat. Oltre ai suoi commenti sulle donne, Dasji ha affermato che gli uomini che mangiano cibo preparato da donne mestruate rinasceranno bufali, aggiungendo: non mi interessa se non vi piacciono le mie opinioni, ma questo è scritto nei nostri shastra, scritture. Cina, 2.233 morti, 75.775 contagiati, per fortuna quasi 17.000 guariti. Primo caso in Corea del Sud, contagiate 156 persone, isolate 2 città. Stati Uniti, secondo il New York Times, la Russia sta interferendo nella campagna elettorale americana con l'intenzione di far rieleggere Trump. L'allarme sarebbe stato lanciato, dice il quotidiano, dai vertici dell'intelligence che ha avvertito il Congresso la settimana scorsa, motivo per il quale sarebbe stato fatto fuori da Trump, irritato da questa cosa che poteva essere utilizzata dai democratici, il capo delle 17 agenzie di intelligence, Joseph McGuire, e nominare al suo posto Richard Grenell. Galapagos, raccolte da 5 isole, patrimonio dell'UNESCO, 8 tonnellate di rifiuti. Panama e isole Cayman. L'Unione Europea ha inserito Panama e le isole Cayman nel suo elenco di paradisi fiscali. Nel caso di Panama, l'Unione Europea ha citato la mancanza di condivisione delle informazioni. Per le isole Cayman, l'Unione Europea ha affermato che la maggior parte delle società sono stabilite lì per eludere le tasse e altre giurisdizioni senza avere alcuna attività economica locale legittima. Bolivia, la Corte elettorale suprema ha invalidato la candidatura dell'ex presidente Evo Morales al Senato perché esiliato in Argentina e quindi non adempie all'obbligo di residenza permanente nel paese. Morales se n'è andato dopo essersi dimesso a novembre in seguito a settimane di proteste per le controverse elezioni presidenziali. E da parte nostra anche per oggi è tutto, grazie di essere stati con noi. Appuntamento a domani con il notiziario orientale e Serena Console. Pagina al femminile qui per Radio Zanardi, perché ragionando della Casa delle Donne andiamo ad ascoltare parole di Valeria D'Onofrio della Casa delle Donne medesima, quella per non subire violenza a Bologna, che ha lanciato un appello alla cittadinanza per arredi ed altro materiale per una casa rifugio in città. Sentiamo le sue parole. Sì, è tradizione Casa delle Donne quella di chiedere la collaborazione di tutta la cittadinanza per arredare le case rifugio, un modo per portare Bologna dentro le case rifugio. E ci serve tutto quello che può servire in una casa, quindi piccoli arredi, dal mini pimer ai comodini, alle lampade da tavolo, all'armadio. E abbiamo pubblicato una lista dettagliata che aggiorneremo via via sulla nostra pagina Facebook, proprio perché ci piace che ogni cittadino e cittadina di Bologna possa concretamente entrare in una casa rifugio e simbolicamente arredarla. Si tratta di una nuova casa rifugio o è una struttura che già avete? Allora, entrambe le cose, è un nuovo servizio che presenteremo tra qualche settimana, quindi non voglio spoilerarlo troppo, anticiparlo, però sì, sicuramente una casa rifugio destinata anch'essa a donne con bambini che hanno subito violenza. Dettagli arriveranno. Tanto così abbiamo acceso una lampadina, no? Abbiamo messo una pulce nell'orecchio. Chiunque avesse degli oggetti nuovi o in ottimo stato da donare ci può contattare. Vedo che tra gli oggetti, appunto, poi dopo rimandiamo la lista anche alla vostra pagina Facebook, ci sono sia, come dire, arredi normali per la casa, ma anche materiale rivolto a bimbi e bimbe. Assolutamente sì, sono i piccoli e le piccole ospiti delle nostre case rifugio, per loro noi cerchiamo cerchiamo di progettare uno spazio adeguato e di avere tutti i materiali per poter condurre insieme a loro delle attività educative. Un'ultima cosa, un sostanzialmente riepilogo del lavoro che fate, cioè di, come dire, dell'assistenza che offrite alle donne a Bologna. Quante sono e appunto quali sono i servizi che avete in piedi? Allora, noi ci occupiamo di accogliere ed ospitare donne che hanno subito violenza di qualunque tipo insieme ai loro figli e figli. Per loro progettiamo tutta una serie di servizi che vanno dall'orientamento al lavoro, alla consulenza legale, tutti completamente gratuiti e in anonimato. Quindi i nostri progetti in realtà rispondono a quello che le donne ci dicono arrivando qui, quello di cui avrebbero bisogno, e quindi la nostra è una continua progettazione che è una forma di ascolto. Ricordiamo che appunto c'è un elenco dettagliato di cose che servono, si può scrivere a infobologna@casadonne.it oppure c'è il sito e la pagina Facebook, vuoi ricordarli? Allora, casadonne.it è il nostro sito, Casa delle Donne per non subire violenza, Casa Donne Bo è il nostro nickname su Facebook. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Elzeviri e zirconi estratti dai giacimenti culturali. Nell'acqua della chiara fontana, lei tutta nuda si bagnava, quando un soffio di tramontana le sue vesti in cielo portava. Dal folto dei capelli mi chiese, per rivestirla di cercare, i rami di 100 mimose e ramo con ramo intrecciare. Volli coprire le sue spalle tutte di petali di rosa, ma il suo seno era così minuto che fu sufficiente una rosa. Cercai ancora nella vigna perché a metà non fosse spoglia, ma i suoi fianchi eran così minuti che fu sufficiente una foglia. Le braccia lei mi tese allora per ringraziarmi un po' stupita. Io la presi con tanto ardore che lei fu di nuovo svestita. Il gioco divertì la graziosa che molto spesso alla fontana tornò a bagnarsi pregando Dio per un soffio di tramontana. Segna stampa di Radio Città Fujiko. Dall'etere dei giornali ai giornali nell'etere. Noi 29 di questo 21 febbraio, venerdì, buongiorno a tutti, siete all'ascolto della nostra emittente con i giornali, siamo in rassegna stampa, che hanno due filoni di primo titolo, chiamiamolo così. I giornali progressisti o più o meno progressisti che si concentrano su quello che l'Avvenire chiama follia xenofoba, ovvero sia questo nazista che ha fatto strage di curdi e stranieri nella città tedesca stessa. Gli altri giornali, quelli centrodestri invece, un po' perché parla di nazisti, insomma, meglio non enfatizzare di troppo più di tanto, e non essendo un integrista islamico è meglio non mettersi il titolo d'apertura, ma poi in particolare perché sono lì che attendono con impazienza che il governo gli cada in mano come una pera matura. Questo è il quadro. Quindi cominciamo dall'Avvenire, dicevamo follia xenofoba, mentre il Manifesto dice fantasmi dell'odio. L'estrema destra colpisce ancora in Germania, 9 morti della strage xenofoba di Hanau, questa è la cittadina vicina a Francoforte, in Assia siamo. L'attentatore ha sparato a raffica in 2 shisha bar frequentati da turchi e curdi, poi uccide anche la madre e si suicida. La Merkel condanna razzismo e odio, veleni per la nostra società. La Merkel, devo dire che a differenza dell'Italia, quando capitano casi più o meno analoghi, ammette che il razzismo è dentro la società, non è che dice che è un corpo estraneo, come invece si dice da noi. E questo è l'allarme nero comunque, racconta il Manifesto, i dati dell'Ufficio per la Protezione della Costituzione, perché ci dice anche un ufficio per la protezione della Costituzione. Da noi invece c'è un ufficio per demolirla, sembra quasi. Allarme nero, un'escalation contro gli immigrati. Ogni anno oltre 100 attacchi alle moschee, che anche la comunità ebraica sotto tiro. Stimati 32.000 militanti di estrema destra radicalizzati, di cui un terzo considerati vicini alla pianificazione di stragi, massacri, omicidi a sfondo razziale. Quindi sono cifre che fanno paura, e sono 20.000 gli attentati commessi in Germania dai neonazisti negli ultimi 12 mesi, 11.100 le vittime di violenza fisica secondo questi dati. E questo nel frattempo a Londra ha coltellato un muezzin nella moschea, quindi l'aggressione verso l'altro sta dilagando, ahimè. Il Corriere in un titolo alto a destra, il killer tedesco che voleva sterminare tutti gli stranieri, sono 9 le persone comunque morte, alcune sono feriti gravi, qui il Corriere dice 11 perché c'è ancora un elemento di persone che sono tra la vita e la morte. Questo, quindi i giornali in macchina la sera sono ancora così diversi nei titoli. E allora la rete nera che passa l'azione, sono cani sciolti, uniti dalla stessa ideologia, o cellula organizzata, l'ex cancelliere Schröder, abbiamo sottovalutato i neonazisti. Dunque questo è il quadro. E lui, questo matto nazista, sono sempre pedinato, non posso fidanzarmi, è colpa delle suite segrete, sono stessi fidanzare ovviamente, incubi ricorrenti di Tobias che voleva la pulizia finale, porto d'armi, posto in banca, viveva con la madre, con la mamma l'ha uccisa. Quindi era, dirà il Manifesto, un cittadino perfettamente inserito, con bancario, nonostante che facesse questi proclami folli su Facebook non era più di tanto controllato. Allora il giornale, il folle Manifesto di Razien, ma nella pagina 13, alcuni popoli da sterminare. Sì, grazie Alfredo e buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. E se il Manifesto dice i fantasmi dell'odio, il Resto del Carlino dice il lato oscuro della Germania. Questa è la prima pagina con cui si apre il Carlino di oggi. E gli stranieri tornano bersaglio, così l'onda neonazista riporta i tedeschi al passato. Mentre all'interno si fa una breve cronostoria di quelli che sono i precedenti: il 1 gennaio a Bottrop, il giorno di Capodanno, il 2 giugno freddato sul terrazzo della propria abitazione nell'Assia, e il 9 ottobre 2019 ad Halle in Sassonia, un tedesco di 27 anni dopo aver tentato di entrare dentro una sinagoga durante lo Yom Kippur ha aperto il fuoco contro i fedeli ebrei, e ci sono 2 vittime. E appunto anche sul Carlino c'è la notizia di un islamico in moschea in Gran Bretagna, a Londra. Il muezzin di una moschea del centro di Londra è stato accoltellato durante le preghiere del pomeriggio ed è stato successivamente ricoverato in ospedale. Il religioso non è in pericolo di vita. E ci sono notizie su quello che stava preparando il neonazista, strage di migranti in Germania. A novembre l'attentatore aveva presentato una denuncia farneticante, ma nessuno lo ha fermato. Hanau, il killer, ha fatto fuoco contro immigrati integrati nel paese. E a questo punto da Berlino c'è un'intervista a Gian Enrico Rusconi, il quale dice: Berlino ha fatto autocritica ma non è servito a far sparire gli estremismi. E ancora altri giornali che abbiamo qui di fronte a noi che ci parlano appunto di questo grave, grave fatto. Tobias, l'impiegato paranoico, annienterò gli immigrati. Appunto si fa di nuovo riferimento a quel video messaggio appunto del killer di Anau. 5 di 10 vittime, 5 sono turchi, gli altri sono curdi, e c'è un intervento di Erdogan che si dice molto spaventato da questo clima. Ancora c'è un caso, l'intelligence in Germania che mantiene monitorati 24.000 nazisti, di cui la metà sono ritenuti violenti. Appunto questo ci diceva La Stampa, mentre invece Repubblica, che ci parla appunto di neonazisti, sterminio razzista in prima pagina con la fotonotizia della manifestazione dove si esibiscono le foto dei ragazzi uccisi appunto nel Nargine Bar di Hanau. Strage scuote la Germania, questa è la notizia. Suprematista fa fuoco in 3 bar di Assia frequentati da turchi. Tobias Ratien, 43 anni, così si chiama, entra nei locali e spara alla cieca. C'è tutta le fotonotizie illustrate a fumetti su come ci sono state, quali sono state le mosse di questo sterminatore, e c'è la Merkel che annuncia che il razzismo avvelena la società, sono troppi i crimini, razzismo e odio sono un veleno e questo veleno esiste nella nostra società. La xenofobia e il razzismo non hanno posto in Europa, è un atto contrario ai valori fondamentali. Queste erano le parole di Ursula von der Leyen, presidente dell'Unione Europea. E allora, quanto matto, quanto nazista, come se le due cose potessero essere tra loro antitetiche. Comunque il giornale con Roberto Fabbri dice: ora è fin troppo facile attribuire la colpa di questo ritorno delle allarmi dell'estrema destra tedesca all'errore politico compiuto nel 2015 dalla cancelliera Merkel, spalancando i confini a 1 milione di siriani. Quindi la filosofia è: non sono razzista se tu che sei negro, perché questa è la colpa della Merkel che ha fatto accoglienza ai siriani, che se invece li bastonava la destra era contenta e non scendeva le armi. Questo è un po' ragionamento. Comunque, e infatti dice: quella scelta ha certamente spinto qualche milione di preoccupati elettori tedeschi ad abbandonare il suo partito centrista per affidarsi alla destra xenofoba l'AFD. Ma un conto è votare a destra e un altro è sparare addosso ai musulmani o agli ebrei. La verità è che il terrorismo islamico era purtroppo attivo in Germania anche prima del 2015, che certi presunti giustizieri in nome del popolo agiscono a prescindere da ciò che dice o che fa la politica tedesca. Questa è gente che ha sempre puntato al tanto peggio tanto meglio, che vuole la guerra civile come bagno di sangue purificatore, un classico delirio dell'estrema destra da 100 anni a questa parte. Per loro un musulmano vale un ebreo, un comunista o un globalista. L'importante è avere un pretesto per menare le mani e sentirsi qualcuno. Non è esattamente così, perché tra di loro, insomma, comunque si rivolgono al loro proclami la nazione tedesca, come ha ben prenotato Robert Conquest nel suo Secolo delle idee assassine della nazione tedesca. A costoro non importa proprio nulla, è la loro idea malata di nazione che pensano mentre si guardano specchio impettiti nelle loro divise da parata. Dice invece Marco Bascetta dal Manifesto nella follia dell'estrema destra, quindi quanto è matto, quanto è nazista. L'idea di poteri occulti e senza patria che governano i destini del mondo, leggono nel pensiero, sorvegliano e governano le vite di tutti a diversi gradi di intensità è un'ossessione piuttosto diffusa. In fin dei conti la dottrina della sostituzione etnica, consegnata da una oscura elite cosmopolita, di cui la razza bianca e la tradizione culturale europea sarebbero vittime pur nella sua evidente paranoia, è variamente proclamata da forze politiche rappresentate dalle istituzioni e perfino esponenti di governi europei. In Germania, poi, un movimento in tempi recenti tutt'altro che marginale come Egida, patrioti contro l'islamizzazione dell'Occidente, da lontano dall'ala più estrema di AfD, ne ha fatto il fulcro della propaganda e della mobilitazione politica. Infatti sarà stato anche matto, ma ci racconta la pagina del Fatto Quotidiano a firma di Uschi Audino, folle razziste, eppure il killer aveva 3 pistole. Perché non è come in America, in Germania, dove compri le pistole che vuoi, si può avere un porto d'armi. Quindi, nonostante i suoi proclami, eccolo qua. E allora tornano i famosi dubbi sulla polizia tedesca, che troppe volte è stata coinvolta in simpatie con l'estrema destra razzista e stragista, fino ad aver fatto delle proprie scandali su questo versante. Ma il razzismo e l'integralismo, la xenofobia, non è solo un patrimonio dell'Europa, evidentemente, è una cancrena che gira per il mondo, gira anche per l'Egitto, nel dittatore Al-Sisi. E allora leggo da Nino Materi, dal giornale: Zaki resta in cella, il motivo è gay, quindi l'intolleranza stavolta non sono più i negri, non sono più gli islamici, ma sono gli omosessuali. Perché, non sapendo bene cosa rimproverargli a Patrick Zaki, incarcerato senza alcun motivo se non che fosse un ricercatore e che lavorava all'università, nel master bolognese, beh, allora cavalcano la daia addosso al gay, che nei fratelli musulmani è un terreno molto fertile per l'intolleranza. Il giornale di regime, quindi è la voce del regime, fa ricerche sui diritti degli omosessuali. Questa è un'accusa che viene sparata proprio il giorno prima, 2 giorni prima del processo del 22 di sabato, che dovrebbe in qualche modo confermare o sconfermare la prigionia per Zaki, Patrick Zaki. E allora abbiamo mobilitazione a Bologna con Daniela Corneo, che dice dal Corriere Bolognese: Zaki in Piazza Verdi, divisa, pressing di Labas e su Unibo. Lezioni speciali al professore, ma i collettivi del professore, ma i collettivi basta accordi con l'Egitto. Nessuna intenzione di creare tensioni, perché l'obiettivo è la liberazione di Patrick Zaki, ma stamattina Piazza Verdi, scelta da un gruppo di docenti dell'Alma Mater come luogo simbolo per fare lezioni su Patrick, parlare del suo caso per sviscerare il tema dei diritti, sarà anche il luogo dove i collettivi studenteschi Labas in prima fila continueranno la raccolta di firme, che ieri al suo esordio, dopo poche ore, aveva già raccolto le 500 sigle. Una raccolta di firme con cui i collettivi chiedono a gran voce che l'Alma Mater interrompa qualsiasi rapporto con l'Egitto. Va bene aspettare l'udienza del 22 febbraio, cioè domani, per esprimerci sui legami con l'Egitto, ma poi se scarceranno Zaki non è che la discussione su questa eventualità può cadere nel nulla, dice Claudia Spagnuolo di Labas e Saperi Naviganti. Sì, ricordiamo che oggi c'è un presidio in Piazza Verdi alle 11 per Patrick Zaki. Il motivo è che appunto domani, come sappiamo, è un giorno cruciale per l'iter giudiziario di Patrick, le cui dolorose vicende ci sollecitano come persone, come cittadini, come studenti bolognesi e come appunto anche i docenti. Ci pare doveroso, continua questo comunicato, nel contesto di tante iniziative di queste settimane culminate con la manifestazione. Il Carlino è molto più superficiale e ci parla di Patrick Zaki dicendo che ha ricevuto nella giornata di ieri una nuova visita da parte dei familiari. E appunto la visita della famiglia è andata bene, senza alcun problema, hanno riferito alle fonti egiziane, limitandosi a precisare che a poterlo visitare sono stati solo i suoi stretti familiari. Domani è atteso, e Carlino anche qui ce lo ricorda, a Mansura, un pronunciamento che potrebbe prolungare di altri 15 giorni la custodia in carcere ordinata l'8 febbraio. Ed è sulla cronaca locale della Repubblica che invece apprendiamo la notizia a tutto tondo. Manifestazione Patrick, Bologna non molla, l'Ateneo torna a farsi sentire. Rita Monticelli, coordinatrice del master che sarà oggi in Piazza Verdi insieme ai docenti del gruppo Saperi Pubblici e alle associazioni studentesche, è un rappresentante di Amnesty. E per l'Ateneo ci sarà la prorettrice Chiara Elefante e non mancheranno gli amici di Patrick, la cui petizione è vicina a 200.000 firme, e i compagni di corso. Al presidio si farà sentire anche la voce di Labà e del collettivo dei Saperi Migranti, come è stato appena detto. I riflettori rimangono comunque accesi su Zaki, che ieri appunto, come riporta il Carlino, ha ricevuto la visita dei suoi genitori più stretti. Le parole di Mirko degli Esposti, prorettore vicario, appunto In pubblico all'Ateneo dice: continuiamo a chiedere giustizia, trasparenza integrale, informazione e rispetto dei diritti fondamentali della persona, a partire da quello dell'opinione. Forza Zaki, ti aspettiamo presto allo stadio qui a Bologna. È l'appello del Bologna Football Club, che ha lanciato via Twitter, rilanciato da Assostampa Emilia Romagna. Domani allo stadio i tifosi faranno sentire la loro solidarietà. L'altro tema molto gettonato, chiaramente, quello dell'eterna crisi di governo, sempre il suolo del baratro in questo balletto sul Titanic. Il Messaggero: Conte ter il piano senza Renzi. Naturalmente questo clima di stop and go delle polemiche, eccetera eccetera, facilita tutti i gossip o anche le invenzioni complete dei giornali, dei loro rumors, dei loro gole profonde che arrivano dal palazzo. La Gazzetta del Mezzogiorno: Renzi rompe e non rompe. Renzi rompe comunque, questo è una certezza. La Notizia, versante 5 stelle: toglietemi tutto ma non le nomine, ecco perché Renzi abbaia ma non morde il governo. Questo è quello che arriva dalla pagina di alcune edicole in giro per l'Italia. Dal Manifesto invece si parla di pentola a pressione, ovvero sia ultimo spettacolo, Renzi chiama Conte, chiudiamo il teatrino, da che pulpito, verrebbe da dire. Comunque i leader di Italia Viva chiedono un incontro, il premier accetta, nessuno si aspetta una tregua, ma per il PD la grana principale sono i 5 Stelle, quindi Scilla e Cariddi per questo governo, in qualche modo intende così Andrea Colombo dal Manifesto. Dice il rottamatore: le telenovelas funzionano quando c'è un punto di chiarezza, questo è il quadro. Mentre il Corriere, su questo appuntamento tra Renzi e Conte, parla di faccia a faccia tra i sospetti. Conte e Renzi si vedranno, il premier, ma il vero confronto è in Parlamento. Insomma, diciamo che Conte snobba un po' le avance un po' pelose, un po' troppo pelose di Renzi. Il presidente del Consiglio: non cerco altre maggioranze, qui lo dico, qui lo nego, avrebbe veramente da pensare. L'Italia Viva: io non resto ad ogni costo. Questo è, anzi, dice la tattica dello stop and go, commentata da Maria Teresa Miglia del Manifesto, del Corriere, di Renzi, è quella dei fedelissimi: sarà bello fare opposizione. Questo è quanto. Tra l'altro Renzi ha incassato una new entry, che è la Silvia Roggiani, 34 anni, guida il PD milanese metropolitano. La Cerno paracadutato deve 20.000 euro ed è sparito. Questo è, c'è anche un motivo concreto per cambiare. No, è finito. Allora andiamo verso alcuni giornali che invece dicono altre cose. Allora siamo al il Giornale, che dice: Conte prepara un nuovo governo verso il Tris, quindi ci sarebbero i responsabili, che peraltro non negano più di tanto, perché c'è chi dice responsabili con Conte, ma Conte, dice uno di questi uomini di Forza Italia trasfuganti, Conte è un galantuomo, quindi fa sapere che lui a chiamata c'è. Comunque il premier fa shopping, questo è la destra che teme da matti gli scilipoti per tenere in piedi un governo di centrosinistra. Prova di dialogo tra Forza Italia e Italia Viva, però conferma il Giornale, quindi è Forza Italia che si sposta verso un grande centro governativo o Italia Viva che si sposta verso un'opposizione di centrodestra? Beh, ai posteri l'ardua sentenza. Comunque partono le prove di dialogo tra Forza Italia e renziani, contatti Renzi-Berlusconi in riunione segreta, tanto segreta che poi ne scrive ad Alberto Signore, nella riunione segreta al Senato tra i capigruppi azzurri Italia Viva. Gli interessati negano. Si ragiona su scenari comuni, anche su un eventuale dopo Conte. Questo è quanto. Mentre Giovanni Orsina, politologo: il premierato non lo vuole nessuno. Beh, sembra che sia di opinione diversa il resto del Carlino nel suo defatigante sondaggio. Ah sì, c'è un defatigante sondaggio sul Carlino che apre in prima pagina con chiamando Renzi il sindaco d'Italia e fa delle ipotesi, appunto, e si capisce che sulla proposta di Renzi del premierato e l'elezione diretta sono favorevoli al 52%. Questo questo scenario è naturalmente definito in questo sondaggio. Renziani e forzisti sono i più favorevoli alla proposta, contrario invece più della metà degli elettori del PD. Nel centro-sinistra ma l'attuale premier, sostenuto da PD e Movimento 5 Stelle, porta al ballottaggio gli altri avversari. Le simulazioni sono centrodestra avanti in tutti i scenari, Matteo Salvini stacca Conte e Zingaretti, ma al lato pratico anche il Carlino accetta questa tregua fra Renzi e Conte. Il premier accetta l'invito del leader di Italia Viva. Presto ci sarà la Conta in Parlamento, il Colle dice si potrebbe forse votare a luglio, e anche queste sono altre voci e illazioni. E c'è anche un'ipotesi di, appunto, di riforma costituzionale. Il premierato, che si indica generalmente una forma di governo caratterizzata dall'elezione diretta del capo del governo, le sfumature, così come i poteri del capo del governo stesso, sono diverse a seconda del sistema. E diciamo che sono quasi 40 anni che nel governo ci sono queste spallate. A metà degli anni 90, durante la bicamerale, la bozza Salvi lanciò l'elezione diretta del primo ministro, ma il progetto fu accantonato. Nel 2006 fu poi il centrodestra con Berlusconi a provarci, gli elettori bocciarono l'intera riforma con un referendum. Ancora su Renzi abbiamo notizie nella stampa, e il piano di Renzi punta su Draghi. L'ex premier chiede di vedere Conte e stringe sulle nomine, e c'è un intervento di Morra, e Morra è il senatore del Movimento 5 Stelle, presidente della commissione parlamentare, che si confessa in un'intervista, appunto, alla stampa, dove dice: da Matteo attacchi irrilevanti, se vuole sfiduciare Buonafede vada in aula, non in televisione, stiamo ragionando di qualcuno che ha bisogno di tornare al centro della scena. Queste sono le critiche di Morra. Renzi, che parla in televisione e dice: a breve incontrerò Conte, ma è ancora scontro in Parlamento. E nella testa ha dell'ex premier ha l'idea di un governo presieduto da Mario Draghi. E questa era la stampa, mentre invece sul discorso, stesso discorsi, la Repubblica è un po' più possibilista. Il premier incontra Renzi e sull'agenda 2023 vuole la Conta alle Camere. Conte dice: la mia porta è sempre aperta, ma nella maggioranza la tensione resta ancora alta. Invece Italia Viva accelera sull'addio, contatti segreti coi forzisti, ci fa sapere appunto la Repubblica. I Dem e il Premier spingono per portare il programma in aula, meglio avere il coraggio che logorarsi in questo modo. In caso dei partiti, il PD, come leggo da Daniela Preziosi del Manifesto, bella sorpresa, presidente del PD sarà la sindaca di Marzabotto, quindi anche un segnale, sappiamo Marzabotto, città martire delle stragi naziste. L'esecutivo ne viene affiancato un altro, quello delle funzioni di fatto di Caminetto. Devo dire che le aggressioni renziane al PD e al governo facilitano l'operato di Zingaretti, che riesce a portare in segreteria anche i vari Lotti, cioè gli ex renziani, che a questo punto abbandonano la navetta che affonda. Ma è lui, Renzi ricomincia da giocare, noi via dal governo al 90%, questa è l'ennesima dichiarazione, quanto leggiamo dal Fatto Quotidiano. Mentre per quanto riguarda la Lega, inchiesta, amici, prescrizione, perché Matteo va alla guerra. Giustizia, parliamo di giustizia, per la chiave di lettura dell'attivismo dell'ex premier basta incrociare il piano della cronaca giudiziaria in quello della politica. Matteo Renzi dunque, processo al giglio magico, le nuove norme del governo non si applicano a nessuno dei procedimenti che riguardano Tiziano Renzi, Luca Lotti e Luca Palamare. E per quanto riguarda il babbo Renzi, se la legge Bonafede fosse stata in vigore, il procedimento del padre sarebbe potuto chiudere senza problemi di prescrizione. Questo è quello che arriva, ma nel frattempo sulle intercettazioni, ok, anche l'Italia di Valore, Italia Viva, scusate, in Senato il leader di Italia Viva è assente, mi si nota di più se ci sono, se non ci sono, è un altro discorso. Ma i suoi votano la fiducia sul decreto, la Camera invece fallisce un altro blitz dei renziani e della destra contro la spazza corrotta. Carrotti. Naturalmente leggo dal Fatto Quotidiano che abusa di questi neologismi pubblicitari per definire questa o quell'altra legge. E poi andiamo al tema delle droghe, per cui ahimè il piatto piange, il piatto governativo piange. Perché droghe, ma Istituto Democratico avverte la Morgese. Così non va, si cambi metodo. Allo studio l'obbligo della carcerazione preventiva per i piccoli spacciatori recidivi. A Roma gli esperti narcotici in 57 paesi, le narcomafie sono, sono un rischio per la democrazia. Ma su questa vicenda droghe, sulla ministra la Morgese, che vuole incarcerare anche gli spacciatori di piccole quantità di sostanze, si dice che è una misura che non risolve i problemi in un paese in cui la popolazione carceraria è composta dal 35% di condannati per reati di droga e le carceri sono poi sovraffollate. L'unica strada sarebbe invece la depenalizzazione. Ne abbiamo parlato con Max del laboratorio antiproibizionista Lab 57. Sentiamo le sue parole. Sembra l'ennesima sparata proibizionista a effetto per ingraziarsi i voti della destra e anche dei più reazionari a sinistra. Detto così sembra una buonissima idea, in realtà si va a vedere, si parla di modiche quantità, cioè di arrestare sul posto chi ha pochissima quantità di sostanze, e invece lasciando intatti i grandi traffici, i grandi narcotraffici che invece sono continuamente in aumento. E noi siamo abbastanza in linea con la posizione di Antigone, per esempio, che fa rilevare che in Italia il 30% dei carcerati riguardano reati legati alle sostanze, piccolo spaccio soprattutto. Il grande narcotraffico fa i patti con la politica e non viene toccato. Negli altri paesi europei, in Spagna, in Francia, paesi vicini a noi, in cui i consumi di sostanze sono uguali, si parla di un quinto, del 19-15% di incarcerati. Quindi quello che non va è da noi, sono le politiche. L'unico modo per togliere benzina al narcotraffico è depenalizzare soprattutto le sostanze come la cannabis, che toglierebbe una bella fetta di guadagni alla narcomafia. Anche depenalizzare anche altri, perché altre quelle, cioè depenalizzare per esempio le foglie di coca, ci toglierebbe un'enorme quantità di soldi ai trafficanti di cocaina. Le foglie di coca sono degli stimolanti usati da migliaia di anni e non creano dipendenza, non creano nessun problema, non uccidono. Oltretutto la soluzione appunto viene sempre indicata, quella del carcere, che non è una soluzione, ma le carceri sono sovraffollate. Lo saranno ancora di più, soprattutto il 25% dei carcerati sono tossicodipendenti e quasi sempre lo diventano dopo che sono entrati in carcere, alla faccia del recupero sociale, cioè la gente. Soprattutto poi le manovalanze di questo piccolo spazio lo sappiamo già dove va a finire. Il decreto di sicurezza ha buttato in illegalità ancora più persone, migranti che arrivano da fuori, e quindi cosa fanno? Faranno quello, e quindi di nuovo la caccia alle streghe verso il piccolo spacciatore, che spesso purtroppo è migrante perché non ha altre soluzioni. Quindi noi siamo contrarissimi a questa sparata che sembra che voglia rievocare la Fini Giovanardi. La Fini Giovanardi è il 40% delle persone che era in carcere legato a reati di piccolo spaccio soprattutto. Quindi inviterei la politica a fare scelte che abbiano un impatto migliore sulla cittadinanza. Incarcerare così. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Penne di classe e piume d'oca. Max parlava di migranti, allora andiamo al Manifesto. A Roma la sentenza della Corte: Rachete agì rispettando le regole del soccorso. Le motivazioni della Cassazione contro l'arresto della capitana della Sea-Watch 3. Sicuramente ricorderete che ha suscitato questa liberazione di Rachete le ire di Salvini. Adesso la Corte definisce proprio che la Corte di Cassazione, nelle motivazioni, dice che non solo è un dovere recuperare la gente che sta affondando, ma è anche un dovere affidarla a un porto sicuro. Quindi questa cosa fa impazzire Salvini, ovviamente. Precedente pericoloso, no? È un precedente costituzionale, caro Salvini. Allora, come la descrive il giornale questa sentenza ai suoi lettori? Perché è curioso. Toghe, caro la graziata, nessuna violazione, spunta un'altra nave. Ora, la grazia del Presidente della Repubblica si dà a un colpevole che per motivi umanitari viene graziato, non a uno che è assolutamente innocente, ha fatto solamente bene, ha rispettato il codice del mare. Ma questo non è certo la Cassazione. E ancora, così viene interpretata la Cassazione, perché anche la Cassazione evidentemente fa parte di questo complotto demoputo giudaico contro Salvini, perché è così descritto da Luca Fasso: la Cassazione elogia Carola, un'altra picconata a Salvini. Quindi vedi, dice, non è per è che si vuole picconare Salvini. Dunque la Corte Suprema giustifica, no, non giustifica, dice che ha fatto bene, che è diverso. Non è che dice, beh, per questa volta capisco, sei giovane. No, no, ha fatto bene. Invece grazia, giustifica, insomma, questo eccetera. E poi, come se non bastasse, spunta un'altra nave, perché ai ai ai, queste navi vanno a salvare la gente che affoga. La ONG battezza la nuova Sea-Watch 4 in Germania, nave acquistata all'asta grazie alle donazioni della Chiesa tedesca. E anche i preti ci si mettono di mezzo. L'imbarcazione sarà attiva nel Mediterraneo in primavera, ieri recuperate 306 persone. Sì, la notizia di Carola Racchetta è spesso messa in relazione nei giornali di oggi alle controversie della Gregoretti e di Salvini, e c'è un filo rosso che lega questi due personaggi. Ma proseguiamo con le notizie che riguardano il lavoro, parlando appunto di una notizia che abbiamo dato ieri, ed era la revoca delle concessioni ad Autostrade da parte del governo. E Conte oggi conferma, senza una nuova offerta da parte di Autostrade sarà revoca delle concessioni. Il governo sta proseguendo nell'esame del dossier per togliere alla società della famiglia Benetton oltre 3.000 chilometri di infrastrutture, soprattutto ora che ha incassato alla Camera la fiducia al decreto mille proroghe, in cui è stato inserito un articolo che non solo facilita il passaggio in via transitoria della gestione ad ANAS, ma riduce a 7 miliardi da almeno 23 l'esborso per la possibile penale da pagare al concessionario a 18 mesi, questo ricordiamolo dal crollo del ponte Morandi, tragico episodio che ha dato il via a questa procedura nei confronti di Autostrade. Ma i Benetton a questo punto stanno in trincea e stanno dicendo, e c'è questo articolo di Sergio Rizzo che ne parla in modo molto approfondito, i Benetton dicono lo Stato pagherà tutte le penali. La prima volta cade l'imbarazzante velo su ciò che tutti sanno e nessuno ammette: il salvataggio di Alitalia per il salvataggio delle concessioni in un modo così smaccato. Poi pochi giorni prima l'amministratore delegato del gruppo Autostrade, Giovanni Castellucci, si è dimesso. È stata una decisione mia, non posso essere non voglio essere un uomo per tutte le stagioni, dice. Da un anno si è imbarcato in una missione impossibile, forse illudendosi a sua volta che regalando l'illusione di tenere a galla l'Italia e per Atlantia sarebbe stata la terza volta in 10 anni, si sarebbero potuti tenere insieme ancora i cocci. Ma il 17 settembre 2019, da quelle sue parole, è chiaro che si è giunti ad una svolta. Repubblica parlava così del mondo del lavoro, e il Carlino, quando parla del mondo del lavoro, ci propone il grande esodo dei professori delle scuole superiori. A settembre, fra Emilia Romagna e Marche, saranno più di 3.000 le persone che andranno in pensione. I sindacati lamentano una situazione insostenibile. Il record sarà a Bologna, resteranno a casa ben 345 docenti. E nelle Marche invece è Ancona la capitale dei pensionamenti. Rischiamo di avere il 40% di supplenti in ogni classe. Il 6 marzo è previsto uno sciopero generale. Il MIUR deve comunque fare delle programmazioni, non si può arrivare a settembre in questa situazione. I docenti dicono, se entreranno le nuove leve può anche essere un'occasione di rinnovamento, bisogna bandire in tempo i nuovi concorsi per supplire appunto queste mancanze. E per quello che è il mondo del lavoro, La Stampa ci propone nelle pagine di L'Economia e Finanza prima di tutto un nuovo sviluppo sulla vicenda Air Italy, la compagnia che effettua voli tra la Sardegna e il resto d'Italia. I lavoratori sono in piazza. Il governo dice un decreto per aiutare i dipendenti e il commissario di Alitalia prepara uno sconto per gli acquirenti. E si parla appunto di questo vertice con Alitalia, ma sempre sulla Stampa c'è un articolo di Alberto Mingardi che parla appunto del fatto che forse è meglio lasciar fallire Air Italy e poi proporre agli azionisti che hanno lanciato hanno annunciato una liquidazione, che si impegnano a pagare tutte le pendenze maturate coi fornitori e creditori, e quando un vettore chiude i battenti è inevitabile un certo disagio per gli utenti. Anche in questo caso l'azienda ha scelto una strategia esemplare, garantendo i voli fino al 25 febbraio e un indennizzo integrale dei biglietti dopo quella data. Al fallimento di solito ci si arriva col fiato corto, i lavoratori perdono il posto, eppure i fornitori e i creditori non sanno che non riusciranno mai a ottenere fino in fondo quel che gli spetta. E in effetti la soluzione in extremis è proprio quella del fallimento, ma noi tutti aspichiamo anche per i lavoratori e per i passeggeri, per gli italiani che volano in Sardegna, che la compagnia venga salvata. Sì, la stampa ha uno strano concetto di esemplare, mi sembra. Comunque l'Unione Sardi invece parla di Air Italy piano d'emergenza. Continuità, attesa la firma, l'Italia pronta a garantire le rotte su Olbia. Oddio, avere come garante l'Italia non credo che sia il massimo della tranquillità. Detto questo, dicevi le autostrade. Se vado al Genova e compro il secolo XIX, trovo autostrade, Conte rilancia il dialogo, se vuol trattare faccio una proposta, perché leggo che lo scontro sulla revoca delle concessioni sarebbe intesa sui indennizzi, tagli dei pedaggi e nuovi soci. Devo dire che la storia degli indennizzi è legato alle scandalose concessioni con i parametri dettati, regalati dal governo Berlusconi, Renzi, Prodi, poi anche da lei, ma alle autostrade, perché altrimenti non si spiegherebbe altrimenti. Allora leggo da Bertasso di Atlantia, qui parla voce Benetton in qualche modo: accordo su autostrade con più investimenti e regole inflessibili, apriamo nuovi soci, la revoca creerebbe un default da 10 miliardi. Mancano standard di sicurezza in Italia, sui tunnel usiamo quelli francesi. Come dice, usiamo quelli francesi, perché i francesi non possono replicare in questo caso, ma insomma, se sono cattivi standard, non mi sembra una gran risposta. Comunque, detto questo, non è solo un problema delle grandi opere, grandi, ma anche delle grandine opere locali, perché leggo Odissea People Mover, ora slitta il primo di aprile, il primo d'aprile. Ci ricorda qualche pesce. Comunque è la pagina che arriva dal Corriere Bologna. L'annuncio della partenza del 7 marzo non sarà rispettato, l'ha comunicato Marconi Express. Da quant'è che vediamo girare questa navetta solitaria avanti in Dre sui ponti, strafatti in tutti i sensi? Via Bertalia, i residenti sono già costituiti in comitato, lamentano la difficoltà di riposo nella zona a causa del rumore della monorotaia. Come abbiamo già ampiamente preconizzato da questi microfoni, è rumoroso e dovrebbe, in teoria, per essere una vetta per i voli, per tutto giorno e notte, lo fanno partire alle 5:30 di mattina, che è già tardi, ma già è troppo presto per chi dorme. Quindi è una grande trovata per una città che voler volare, e qui si parla di volare, all'aeroporto in casa, quindi non c'è nessun bisogno di treni per andare da Milano a Varese come Malpensa, per dirne un altro, solo che ci voleva una grandina opera per finanziare i soliti noti. Però leggo dal giornale, parlando del lavoro, questo tema che arriva e che riguarda la crisi: chiudono 70.000 negozi, così le città sono meno sicure. Con commercio in 10 anni è giù il 12% di saracinesche, ad aprile sono gli stranieri. Qui naturalmente il giornale la mette come della serie accidenti, ci portano via i negozi, in realtà se non ci fossero loro sarebbero più saracinesche chiuse. Sangalli parla di una patologia e il commento di Carlo Lottieri: meno tasse sulle vecchie botteghe. Ora, meno tasse, naturalmente più tagli le tasse, meno lo Stato ha risorse, meno può intervenire, fino a prova contraria. Perché per esempio non tassiamo di più le grandi banche che prospettano utili da capogiro? E allora vengo al fenomeno banche. UbiBanca, UbiMajor, Minor Cessat, ma i minor non ci stanno, perché lei, UbiBanca, il no degli soci industriali, ostile e inaccettabile l'offerta intesa, il patto dei bergamaschi 18% approva a resistere, lunedì si riuniscono i bresciani, il CEO, il capo di Intesa San Paolo Carlo Messina, un'operazione di mercato, andiamo avanti, della serie business is business. E questo e quindi e allora c'è tutto il domino, il gioco dei rimbalzi nel mondo finanziario d'alto bordo, altissimo bordo. Mostier, Morelli, Ermotti, si apre qui sarebbe fatto delle rime sconce, invece noi leggiamo dal Corriere: si apre il rischio dei banchieri, le voci su HSBC e il CEO di Unicredit, l'addio dal vertice di MPS, il cambio a UBS. Insomma, banche inquisite o non inquisite, sempre di un balletto di nomine che è sempre un piacere. si fa per dire, piacere. E allora leggo dal Manifesto invece questo momento che si il lavoro torni a sinistra, asse tra la D'Alema e Landini. Dialogo in CGIL, servono le sardine operaie. Nel momento in cui le sardine dicono quelle politiche, la stagione delle piazze è finita, perché hanno capito che evidentemente sulla loro pelle, che è passata la stagione elettorale in Emilia Romagna, è chiaro che scema anche la tensione, scemano anche le presenze in piazza, ma e vengono a galla anche i guai. Il lavoro torna a sinistra, asse tra D'Alema e Landini. Dialogo in CGIL, servono le sardine operaie, contrattiamo cosa si produce. L'ex premier segretario dei sindacati uniti qui per rilanciare il ruolo pubblico. Questo è il tema, e in particolare un tema che riguarda il gap, perché praticamente il sofferente nel lavoro è il sud. E i tuoi occhi un luogo della mente, passa il fiume e non rimane niente, sulla spiaggia ci sono le rose, se le guardo non sono più rose, sotto un cielo che non ride mai, mi aspetterai cantando. Onda Calabra, indoci l'anda, undi kaine, undi spin, undi arvai. Onda Calabra, indoci l'anda, undi sone, undi sone, shaina laina. Onda Calabra, indoci l'anda, undi kaine, undi spin, undi arvai. Onda Calabra, indoci l'anda. Tuoi occhi è un luogo interessante, passa il fiume e non ricordo niente, sulla spiaggia ci sono le cose, se le guardo non sono più cose, sotto il cielo che non ride mai, mi aspetterai cantando. Onda Calabra, indoci l'anda, undi kaine, undi spile, undi arvai. Onda Calabra, indoci l'anda, undi sole, scena laina. Onda Calabra, indoci l'anda, undi kaine, undi spile, undi arvai. Onda Calabra, indoci l'anda, undi sole, scena laina. Onda Calabra, indoci l'anda, undi kaine, undi spile, undi arvai. Onda Calabra, indoci l'anda, undi sole, scena laina. E 13 minuti primi, Radio Città Fujiko, questa è la rassegna stampa e l'argomento che andiamo ad affrontare è l'ambiente. Lo facciamo partendo dal clima e dalla constatazione che in questo periodo siamo sempre più soggetti a eventi estremi, ovvero ormai sono due mesi che non piove dalle nostre parti, abbiamo avuto un novembre dove è piovuto pochissimo ma con eventi estremi, e il Po ha il livello più basso degli ultimi tempi e probabilmente gli agricoltori stanno già lamentandosi dell'inverno più caldo di sempre. Infatti il Carlino, Bologna apre caldo record, campi a rischio, gennaio bollenti, agricoltori temono le gelate tardive. Questo è il quadro che arriva, alberi da frutto già in fiore, se ora gela è un disastro ed è il sesto gennaio più caldo dal 1961. Accidenti. E se qui è siccità, invece nel Regno Unito è allarme per piogge torrenziali e sono attese nuove esondazioni e disagi nei trasporti. A pochi giorni appunto dalle inondazioni e dai disastri provocati dalle tempeste Ciara e Dennis, il Met Office, il Servizio Meteorologico Nazionale del Regno Unito, ha diramato un'allerta meteo di colore giallo. L'avviso riguarda Galles, Inghilterra ed è relativo a piogge torrenziali in arrivo. Secondo le previsioni meteo, su alcune contee potrebbe abbattersi in 24 ore una quantità di pioggia pari a quella di un mese, in linea con le medie stagionali. Si temono nuove esondazioni di fiumi e disagi nella mobilità, come appunto vi stavo dicendo. Questa era la fotonotizia con dei poliziotti a mollo nell'acqua delle pagine della Stampa. E invece c'è una buona notizia, fra virgolette, che arriva dal Canada. C'è Justin Trudeau che ha un'idea quantomeno bipolare per risolvere i problemi climatici, nel senso che da una parte sostiene la campagna per l'estrazione del carbone, dall'altra lancia dei brevi segnali di svolta green. Cosa sta accadendo? Ci sono i nativi americani contro il piano da 6 miliardi di dollari per fermare il gasdotto. Loro dicono inquina le nostre terre, ci sono dei sit-in che paralizzano strade e ferrovie, si chiama il popolo del fiume che ha paralizzato il sistema ferroviario canadese. Da 2 settimane ci sono 24.000 passeggeri e tonnellate di merce che sono nel caos alla ricerca di strade alternative. I capi ereditari della tribù Wet'en, sostenuti da centinaia di persone, si stanno battendo con barricate e manifestazioni contro il progetto di un gasdotto che dovrebbe attraversare le loro terre. La costruzione della Coastal Gas Link Pipeline, iniziata nel 2012, prevede la realizzazione di 670 km di tubi dal costo di 6,6 miliardi di dollari, che dal nord-est della Columbia Britannica arriverà fino alla costa. Tubi che passeranno sotto il fiume da cui prende il nome questo popolo di nativi, stanziale nel territorio da migliaia di anni, con il rischio appunto di contaminare l'ambiente. La comunità accusa il premier e il governo valuta di iniziare a usare le maniere forti e la polizia. Un'altra notizia che ci arriva ancora dalle pagine di Repubblica ci parla di Jane Fonda, l'attrice che ha 82 anni e si batte per l'ambiente, con un film ritrovato ricorda il Vietnam e l'impegno pacifista. Dice in una bella intervista di Silvia Bizio da Los Angeles, che gli chiede come sono le sue lotte ambientaliste. Dice: ho eliminato la plastica e uso pannelli fotovoltaici e guido auto elettriche. E allora abbiamo l'inserto di giovedì del manifesto extraterrestre, ne avremo un altro, clima che ci cambia, il nuovo supplemento in edicola domenica gratis col Corriere per approfondire i temi legati all'emergenza ambientale, si chiama Pianeta 2020 ed è il primo passo di un'inchiesta multipiattaforma che troverete in edicola e sul web. Emissioni, dunque oceani, green economy, vita nel mondo che si prepara alla sfida della sostenibilità. Nel frattempo sulla sostenibilità abbiamo il manifesto in 15ª pagina, quella dei dibattiti, che con Luigi Ferraioli, nota figura della giurisprudenza progressista, dice: siamo preda di lupi artificiali perché è una costituzione della terra, le motivazioni forti di creare una costituzione per la terra. Per la prima volta l'umanità è accomunata da un interesse generale ben più vitale del passato, quella alla sopravvivenza dell'umanità e all'abitabilità del pianeta. Tutto questo però non scalfisce il mondo politico e finanziario, perché leggo a Bruxelles, che avevano varato un green economy in teoria, invece con l'abbandono del Regno Unito viene a mancare un forte momento di finanziamento centrale, e allora sulla coperta corta di Bruxelles la battaglia flessibile delle C17 cicale, cioè i paesi del nord dicono paese del sud al diavolo. Questo è al via il Consiglio europeo, braccio di ferro sul bilancio, in particolare tra Macron e la signora Merkel. Questo. E allora risuona forte sull'ambiente questa canzone che forse magari la riconoscete. Questa è Bella Ciao, in realtà è Singing for the Climate, anzi, che appunto Bella Ciao è famosissima non solo perché è simbolo della resistenza italiana, ma anche perché è simbolo della casa di carta che ha andato a nord, sud, est, a ovest, ha invaso tutte le serie televisive. La cronaca, treno deragliato, altri 12 indagati, c'è il numero 1 di RFI. Lodi, salgono 19 le persone sotto inchiesta per il disastro, l'incidente, perso la vita a due macchinisti, ricordiamolo perché subito dà la colpa ai lavoratori che intervenivano sui binari, ma in realtà i lavoratori erano a posto, sembra, erano i binari che erano rotti in partenza. Parlo di casa perché con il Corriere di Milano parlo degli affitti, contratti lampo e prestiti da record. Il sindaco Sala dice emergenze per i giovani, per gli Airbnb, insomma. La metà delle lettere che mi arrivano dai ragazzi riguarda la difficoltà di trovare un appartamento. Questa è la fotografia sul fronte che si è aperta in città tra lunghi affitti e affitti brevi. A Bologna, invece, leggo col Corriere di Bologna locale in apertura, in città ci sono 7.000 alloggi sfitti. Il mercato si è ripreso, i proprietari preferiscono tenere vuoti gli immobili per venderli. Forse la vecchia logica di requisire le case sfitte per dare chi ne ha bisogno aiuterebbe anche a impedire questo aggiottaggio, perché di fatto di questo si tratta. In provincia le case fuori dal mercato sono 12.000, diminuiscono invece gli sfratti per morosità. E sulla casa, tornando anche proprio a Milano, di cui abbiamo parlato, inizialmente pensato per quelle persone che sono troppo benestanti per accedere alle case popolari, il social housing, ma non abbastanza per stare sul mercato, il social housing a Milano sta facendo gola invece a chi? Alle banche. Tutto finisce in finanza, che devono piazzare gli alloggi senza rendita ereditati dalla crisi. Ne abbiamo parlato con il giornalista Francesca Flori, sentiamo le sue parole. Sì, è un'espressione inglese che in realtà, rispetto alla sua applicazione che per esempio ha nel Regno Unito, in Italia si è declinata in tutta una serie di forme di intervento del privato sociale sul mondo abitativo. Quando nasce, quando diventa, nasce in seno a Cassa Depositi e Prestiti, a Milano arriva prima, però diciamo a Cassa Depositi e Prestiti nel 2009, sostanzialmente si inizia a diffondere una espressione per definirlo. Sono tutte quelle forme che aiuteranno ad accedere a un'abitazione, la zona grigia del mercato mercato degli inquilini. Questa è un'espressione molto diffusa fra urbanisti, fra architetti, fra addetti ai lavori. La zona grigia significa coloro che sono troppo benestanti per accedere alle case popolari, ma non abbastanza per accedere al mercato immobiliare. Questo ci porta direttamente a capire come da regione a regione, addirittura da città a città, poi gli interventi cambieranno, perché sia le case popolari sono di competenza regionale a livello di normativa, quindi i requisiti sono diversi, e il mercato immobiliare, a maggior ragione in questa fase, sulle diverse città è completamente diverso. Quindi, per dare una definizione sintetica, direi questo. Cassa Depositi e Prestiti ha investito molto sul social housing a Milano, giusto? Ma a Milano, in tutta Italia, le risorse sono 2,28 miliardi di euro, non sono tutti soldi pubblici, nel senso che Cassa Depositi e Prestiti inizialmente ha fatto un investimento da 140 milioni di euro, e la speranza era che Aleva, appunto, attraverso tutto un sistema di fondi locali per l'abitare di vario tipo, dopo ne entriamo nel merito di qualcuno, si riuscisse appunto Aleva a finanziare interventi molto, molto più costosi. Allora, rispetto alle aspettative, quei 2,28 miliardi di euro servivano a costruire 20.000 appartamenti, che è al di sotto rispetto alle aspettative, però è anche vero che negli ultimi 4-5 anni, almeno a Milano, gli interventi hanno preso piede, ce ne sono alcuni che sono già riempiti da un punto di vista degli inquilini, ci sono i gestori sociali, cioè questi ruoli spesso affidati a cooperative o imprese sociali che all'interno dei quartieri fanno attività di economia partecipativa, di produzione culturale, eccetera. E ci sono tantissimi, tantissimi progetti attivati. Però in un articolo che è pubblicato su Affari Italiani, poi magari appunto linkeremo anche per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, tu racconti in modo anche abbastanza dettagliato come dalla finalità, dalla strategia sociale per appunto questa zona grigia, quello che si è verificato è un po' diverso. Sì, nel senso che rispetto a come era stato pensato il social housing in salsa all'italiana, è iniziato a diventare sempre più chiaro come a un certo punto grosso degli interessi che ci stavano dietro era quello del mondo bancario e delle fondazioni bancarie, che dal post crisi in poi sono piene di immobili figli di tutta, diciamo, la crisi dei crediti deteriorati, gli NPLs, le sofferenze bancarie garantite dal mattone, perché il nostro sistema bancario italiano è sempre stato largamente connesso col mondo dell'immobiliare. Tutti questi immobili non venduti, iniziative progettuali su interi quartieri mai completate, appunto proprio a causa della crisi, e che non avevano quindi alcun tipo di rendimento. Il social housing è diventato uno strumento per mettere a rendita, anche se a livelli inferiori rispetto a quelli del mercato, ma tanto quello precedente era zero come rendimento, proprio tutte queste strutture. Ormai questo, diciamo, è diventato abbastanza assodato anche fra gli urbanisti, gli architetti, sulle riviste del Politecnico, sulle riviste legate a Roma 3, eccetera, tant'è che per esempio appunto a Milano uno dei principali soggetti che si occupa di social housing è proprio Cariplo, attraverso la fondazione Housing Sociale, e Cariplo è il terzo azionista ordinario di Intesa San Paolo. Quindi rassegna stampa di Radio Città Fujiko. La rotta dell'informazione. La pagina internazionale diventa pagina locale perché parliamo di coronavirus, pagina italiana voglio dire, perché c'è un nuovo contagio, però questa volta in Italia. E non è un cinese, ma è un 37enne ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Cordogno, nell'Odigiano. Il nosocomio Bolombarte è interrotto per cautela gli accessi al pronto soccorso e le attività programmate. Ora si cerca di ricostruire i movimenti dell'uomo negli ultimi giorni. Avrebbe cenato a fine gennaio con amici tornati dalla Cina. In mattinata è prevista una conferenza stampa delle autorità sanitarie, quindi anche gli amici chiaramente adesso saranno oggetto di indagine. Abbiamo già ricostruito i contatti dei medici, degli infermieri, dei familiari più stretti da cui abbiamo già fatto i tamponi. Vengono messi tutti in isolamento o chiamati a stare in isolamento al loro domicilio, la moglie, i genitori. L'ha detto l'assessore al welfare della Lombardia a Rai News a proposito dell'uomo positivo al coronavirus ricoverato a Codogno nell'Odigiano. La macchina si è mossa con rapidità, ha aggiunto l'assessore Giulio Gallera. Sì, sulla stessa onda, cronaca ed esteri, continuiamo a parlare di coronavirus. E gli italiani di Wuhan hanno finito la quarantena, domani arriveranno anche a Roma i crocieri in isolamento per 18 giorni tra partite a carte e TV alla Cecchignola. Ora i reduci saranno qui al sicuro, e c'è un una notizia che riguarda il capitano impavido che resta sulla nave. Avete presente la Diamond Princess ancorata nel porto del Giappone? Gennaro Arma, il capitano, 45 anni, della Diamond Princess, bloccata in quarantena nel porto di Yokohama in Giappone, viene da Sorrento, ci fa sapere Repubblica. Ancora sul coronavirus, dalla Stampa c'è un'intervista a Vittoria Colizza, che è un'analista e ricercatrice dell'Istituto Inserim, che valuta questa professoressa romana, studia i flussi dei virus. In questo momento ci fa sapere che l'Africa è a grande rischio se non ferma i voli. E un altro paese che è a grande rischio è la Corea del Nord, che non rivela neanche i dati degli ammalati o dei problemi di infezioni. Il continente appunto più vulnerabile è quello africano. Ancora notizie sul coronavirus dal Sole 24 Ore, il giornale della Confindustria, e c'è ricadute del coronavirus. La banca centrale rassicura sull'impatto ma rafforza la politica monetaria espansiva. Il contagio frena anche la filiera dell'energia verde, perché perché la Cina traina il mercato delle energie rinnovabili e domina le forniture di pannelli solari e batterie. E appunto probabilmente ci sarà nel nostro paese un calo dal 10 al 50% della nuova potenza eolica a causa appunto del virus. Vengo a Il Manifesto. Putin, Erdogan, dalle parole ai raid. Guerra in Siria, Idlib caccia russi, bombardano le postazioni turche, civili allo stremo. Quindi dagli addosso al civile comunque cosa accada. E poi ieri toccati il punto più basso dei rapporti tra i due alleati rivali, sembra la più grave la situazione di civile tentato a Damasco. Ankara risponde ai caccia russi sparando e uccidendo decine di soldati siriani e poi smentisce di aver chiesto il sistema di difesa Patriot agli Stati Uniti d'America. Nel frattempo, per non dimenticare mai le guerre più feroci, in Yemen il raid saudita uccide 19 bambini. Notizie che ho solo sul Manifesto, gli altri che giornali che dicono bambini, però quando sono bambini degli altri non gliene frega niente, mi dispiace dirlo, ma insomma. A proposito di coronavirus, abbiamo tornatevene in Cina, i fascisti ucraini guidano la rivolta contro il sanatorio. A Novi Sandarie è dovuto intervenire il ministro degli interni per placare gli animi. Questo è sempre loro, sempre generosi, come dire. Ma vengo agli Stati d'America. Secondo round televisivo del dibattito tra i democratici, in campo Bloomberg, scollegato, a Las Vegas brilla la Warren, secondo il bilancio che da Marina Catucci dal Manifesto. Primo dibattito per il miliardario, la senatrice lo stracci dimentica le liti con Sanders. In Nevada tra i democratici volano i coltelli e lotta al centro, bootleg avanza. Questo è quanto però Trump fa sentire la sua voce. Leggiamo questa mattina. Oscar, leggo un flash com'è, senza far commenti ulteriori. Trump deride il vincitore di Parasite per gli Oscar. Cosa ha fatto di male Parasite? Leggiamo. Il presidente nordamericano Trump contesta l'Oscar al film sudcoreano Parasite. Quanto ha fatto male l'Academy Awards quest'anno? Abbiamo avuto abbastanza problemi con la Corea del Sud per il commercio e loro l'hanno premiato col miglior film dell'anno? Ha detto durante un comizio a Colorado Springs. È tempo di tornare ai classici. Possiamo tornare alle favole a Via col Vento, per aggiunto, trifinendo Brad Pitt e Saputello. Durante la premiazione Pitt aveva criticato la soluzione di Trump sull'impeachment. Questa è la concezione di alto profilo culturale che ha Donald Trump, ma non ci stupisce. E vengo invece nell'Iran, che va al voto con i riformisti esclusi, conta solo l'affluenza. Migliaia di squalificati conservatori domineranno il presidente Rouhani, partecipare per l'unità nazionale. Oggi le parlamentari, questo non sfugge a nessuno, naturalmente che la crisi dei riformisti, l'avanzata e il ritorno forte dei più rigidi integralisti è legato al fatto che Trump ha stracciato l'accordo sul nucleare a suo tempo siglato da Obama. E allora oggi elezioni in Iran, commenta Alberto Negri dal Manifesto, gli USA non vogliono un paese normale. Sì, siamo alle battute finali di questa rassegna stampa, ancora qualche cosa dall'estero. Sarraj da Tripoli in Libia, Sarraj a sorpresa da Erdogan, sono ripresi i colloqui sulla tregua. appunto il, sul Russia Gate, condannato Stone, il consigliere di Trump, il vecchio amico, condannato a 3 anni e 4 mesi, Roger Stone è coinvolto nel Russia Gate insieme a Trump. Mi spiace dirlo, ma i virus, i casi in Lombardia sarebbero già 3. Quindi però, oltre al 38enne ricoverato al Codogno, si sarebbero anche 2 persone positive al test per la coronavirus. La moglie è un uomo che avrebbe avuto contatti con lui e che si è presentato in ospedale con sintomi di polmonite. Questo è il dato che è sicuramente allarmante. All'Argentina, sì, prendiamo il pannuelazo, dice il Manifesto Argentino ci riprova. Claudia Fanti parla delle donne argentine che hanno inventato, non una di meno. Dopo due anni, migliaia di donne rilanciano una campagna per l'approvazione della legge che legalizza l'interruzione della gravidanza. E questa volta il governo di Buenos Aires sembra ascoltarle. E infine un tributo, perché è morto Larry Tesler. Chi è Larry Tesler? È l'inventore del copia e incolla, così ricordato nell'epitafio da Spinotta nella Cattiveria. È morto Larry Tesler, l'inventore del copia e incolla. È morto Larry Tesler, l'inventore di copia e incolla. È morto Larry Tesler, l'inventore di copia e incolla.